Cari amici di Radio Alma, benvenuti da parte di Massimo De Martino, benvenuti ad una nuova puntata della tela sonora Cuore di Poesia. Anche in questa puntata parleremo di poesia, puntata molto interessante, avremo ospite Luciana Argentino che ci parla del suo libro, Diario in verso. Attraverso il suo libro, come sempre, cercheremo di capire il poeta, in questo caso la donna, poesia al femminile, entrando un pochettino nei dettagli di quello non solo che è il suo libro, ma la sua vita, le sue ispirazioni. Come sapete, cercheremo insomma di scavare anche le emozioni che le sue poesie, appunto tratte da Diario in verso, un libro edito da Manni, cercano di scuotere nel cuore e nell'anima dei suoi lettori e delle sue lettrici. Avremo poi nella seconda parte l'occasione di ascoltare le sue poesie, alcune direttamente dalla sua voce, altre ve le leggerò io, insomma un'altra puntata interessante, un'altra puntata di poesia qui alla Terra Sonora, Cuore di Poesia per Radio Alma. State insieme con noi, tra pochissimo al telefono con noi Luciana Argentino, parliamo di Diario in verso. E ha piovuto il caldo, ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso, a quest'acqua un senso. Parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Lasciare spazio a chi dice che di spazio e tempo non ne ho dato mai. Seguo il sesto senso della pioggia e il vento che mi porti dritta dritta a te che freddo sentirai. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai. Questa è la tela sonora Cuore di Poesia. L'ospite di questa puntata, come vi ho detto in apertura, è Luciana Argentino, che ho al telefono con me. Ciao Luciana. Ciao Massimo. benissimo, ciao, ciao a tutti. Prima di tutto benvenuta, abbiamo insomma un po' di tempo per chiacchierare intorno alla tua poesia e in maniera specifica del tuo libro Diario in verso, che è uscito con l'editore Manni e che insomma è la tua ultima creatura, giusto? Sì, giusto, giusto, ultimissimo mio libro edito. Senti, se non sbaglio è il tuo quinto libro, giusto? Sì, è il mio quinto libro, sì. Il primo l'ho pubblicato nel 91 e diciamo raccoglie, io li chiamo le poesie giovanili, insomma comunque sì, questo è il quinto libro. Senti, pensi in qualche modo di aver attraverso ecco, la pubblicazione, ma soprattutto la scrittura di questi quattro libri precedenti e questo, di essere giunta a una certa maturità, se per maturità intendiamo il tuo modo di voler far poesia? Io credo di sì, anche se, non so, io penso che la poesia, un po' come la vita, è un cammino, no? È un percorso sempre in crescita, e quindi, ma senz'altro sì, perché in qualche modo la poesia ha accompagnato anche la mia maturazione umana e spirituale, insomma, e quindi con le esperienze di vita, anche la, diciamo, in qualche modo hanno influito anche sul modo di scrivere, questo senz'altro. E ti è capitato ultimamente di rileggere magari il primo che hai pubblicato, quello che tu dici delle poesie giovanili e Diario in verso, di fare non una sorta di confronto, ma insomma di giudicare quello che è il tuo percorso fin qui? Sì, sì, mi è capitato anche di recente, in effetti sì. Sì, diciamo, rileggere quelle poesie qualche volta, no, non è una tenerezza nel senso non di autocompiacimento così, ma insomma sì, cioè, ho riscontrato alcune ingenuità anche nello stile poetico, nell'espressione, no? Magari hai visto una te diversa, insomma. Sì, una me diversa, senz'altro, sì. Forse io sono sempre stata una persona piuttosto, inizialmente mi ritenevo ottimista, forse ecco c'è questo ottimismo che poi mano a mano è diventato più un modo positivo poi, no, di vedere la vita, perché magari a quell'età, cioè intorno ai 20 anni, così sei un... ti ostini forse a vedere un po' tutto rosa, tutti sono buoni, certo. Invece poi non che sia cambiato, cioè io credo ancora insomma in determinati certo, però valori, sì, sì, si impara a conoscere una parte della vita diversa, sì, e certo, che ci si porta certo. Poi dietro certo, la vita di chi vuol fare poesia in Italia com'è? È dura? Insomma, penso abbastanza. Io non conosco la situazione negli altri paesi, però qui in Italia abbastanza. Diciamo, forse, io non so, alcuni ne parlano male, ecco, adesso con l'avvento di internet, Facebook, questi nuovi mezzi che danno la possibilità di conoscere, di farsi conoscere da un maggior, diciamo, pubblico. Insomma... forse ha portato un po' di miglioramento, anche se anche una gran po' di confusione, forse anche di dispersione, dicono, so, insomma, quello che a volte seguo questi dibattiti anche sulla rete. Però sì, non è facile, perché devi comunque tu proporti. Non ci sono quegli spazi che dovrebbero essere dedicati, no? A questa parte della cultura. In realtà così sì. Non ci sono neanche persone che tendono a occuparsi seriamente di questo. Sì, insomma poco. Io ricordo ho iniziato agli inizi degli anni 90 con degli amici a proporre anche serate di poesia in cui presentavamo sia poeti sconosciuti che voci insomma già note. E insomma ricordo che erano dei bellissimi incontri, insomma sempre pieni di giovani. E infatti questa cosa un po' mi manca. Ecco, forse gli incontri con le persone al di là di internet e del web, insomma, ecco, proprio ritrovarci nei luoghi, insomma, per scambiarci le poesie, il proprio lavoro, il proprio pensiero. Questo un po', diciamo, mi manca. E anche sì, questi spazi ultimamente sì, si fa vita piuttosto ritirata, insomma, ecco. E tu hai cercato una motivazione a questo in una nazione come insomma l'Italia, dove mi sembra che invece le persone abbiano tanta voglia di poesia, perché poi siamo una nazione nella quale tutti hanno, no? Delle poesie, sì, da qualche parte, quindi se le hai scritte in qualche modo vuol dire che è una materia che ti interessa. Certo, sì, questo senz'altro, insomma, è... Come dire, qui, diciamo, qui a Roma in particolare mi capita spesso, cioè ci sono degli appuntamenti, incontri quasi quotidiani, insomma, però poi ecco, quando vai vedi più o meno le solite persone. Molti mi dicono che, sì, cioè, che va bene, che, cioè, che va bene così, perché la poesia comunque è già di per sé un genere di nicchia, come lo chiamano, però a volte piacerebbe coinvolgere un po' di persone, cercare di fare in modo che le persone superino un pochino questa diffidenza che hanno nei confronti della poesia. Sì, poi io un po' di più. Non sono d'accordo che sia una cosa di nicchia, perché anzi la poesia è il primo linguaggio universale, no? dei sentimenti, quindi sì, no, infatti anch'io, però molti cioè, mi è capitato di pensare, sì, di parlare, scusami, anche con persone che dicono, che mi hanno detto no, forse non è giusto che la poesia non lo so, cioè non deve, non è per le masse, sai, non so, adesso se sono dei discorsi un po'. Sì, ma magari si fanno proprio perché ci si trova in una situazione di quale sì, si trova in quella, so, situazione, ecco. Sì, in quella situazione. Bene, Luciana, noi adesso ci, sì, fermiamo un attimino, ascoltiamo, sì, una canzone insieme, ma tra pochissimo torniamo a parlare con te di poesia, insomma anche a conoscerti un po' meglio, oltre come poeta, anche come donna. A tra poco. Grazie, sì. Has anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? Oh, he freed a lot of people, but it seems the good die young. Yeah, I just looked around and he was gone. Has anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? You know, he freed a lot, but it seems the good die young. Yeah, I just looked around and he was gone. Oh yeah. Has anybody here seen my old, but it seems the good die young, yeah. I just looked around and he was gone. Thank you. In questa puntata della Terra Sonora e Cuore di Poesia, qui a Radio Alma, con noi Luciano Argentino, che lei abbiamo già cominciato a chiacchierare un pochettino di temi, insomma, così, come dire, un po' del più e del meno, anche per iniziare a conoscere un pochettino. Adesso invece vorrei entrare un po' di più in quella che è la tua poetica, in quello che è il tuo diario in verso. Sì. Intanto, chiaramente, ti chiedo da cosa nasce il titolo del tuo libro. Solitamente il titolo è cosa molto importante, perché è come il nome di ognuno di noi, no? Il titolo del libro è la sua presentazione prima, il suo battesimo. Certo, è diario inverso perché diario, innanzitutto il libro nasce sì da un'esperienza mia di vita, insomma, personale, e un'esperienza, insomma, non particolarmente felice, che, di cui a un certo punto ho sentito l'esigenza di cercare le ragioni. E quindi è stato un viaggio un po' ritroso, quindi inverso dentro me stessa, per cercare di capire come mai ero arrivata, ecco, a vivere, di trovarmi in quella situazione. E quindi inverso è in prima istanza questo, insomma. Una sorta di indicazione del viaggio a ritroso per ritrovarsi. Sì. E poi sì, certo, è chiaro che mi piaceva anche il senso, titolo poetico. Inverso, sì, insomma, che nasconde anche, insomma, la parola verso, e quindi il riferimento alla poesia, insomma, certo. che per me rimane sempre il mezzo, insomma, così, diciamo, eccellente per me per scavare dentro me stessa, insomma, per conoscermi e per conoscere la realtà che mi circonda, possibilmente. Scrivendo questo diario, quindi questi versi di questo tuo viaggio, in qualche modo la tua diventa una poesia a volte anche ermetica, nel senso che quando poi uno si mette a confronto con se stesso, scava, come dicevi tu, a fondo, e quindi viene fuori un certo ermetismo della parola. Da questo punto di vista, poi leggendo le tue poesie, pensi di essere riuscita a comunicare anche al tuo lettore in maniera precisa quelle che sono state le tue sensazioni? O forse lasci che coloro che leggano possano cercare anche loro dentro se stessi, attraverso anche solo una parola, una frase del tuo libro? Certo, questo senz'altro, insomma, quando uno scrive una poesia, diciamo, chiaro, si parte da se stessi, ma poi, insomma, si spera sempre di raggiungere senz'altro anche l'altro. Insomma, per me scrivere, fare poesia non è mai stato uno, cioè vorrei che non sia mai stato, insomma, un essermi scritta addosso, diciamo, non uno scriversi addosso. E poi, tra l'altro, anche Montale, insomma, diceva che il bisogno di un poeta è la ricerca di una verità puntuale e non di una verità in generale, che però diciamo il poeta non rinneghi quello che è lui stesso. E io, insomma, in genere cerco, è così, si parte sempre da se stessi e poi, come ti ripeto, c'è questo anelito a raggiungere senz'altro anche l'altro. Proprio penso che sia l'essenza stessa della poesia questa, insomma. E quindi a volte, insomma, la poesia non ha bisogno che di se stessa, ecco, per spiegarsi, per dire. Sì, comunque, cioè, è una cosa importante, spiegarla certamente sì. La rende meno importante. Sì, sì, sì. Comunque, insomma, per quanto riguarda questo libro in particolare, insomma, gli amici che l'hanno letto anche durante la presentazione che abbiamo fatto, insomma, è stato detto che, ecco, nonostante io partissi da questa mia esperienza particolare, comunque avevo trattato un tema, come spiega anche Marco Guzzi nella prefazione, insomma, piuttosto comune, insomma, ecco, quello del rapporto di coppia, e quindi. Certo. Senti, chi legge, oltre chiaramente te che le hai scritte e rilette, per primo le tue poesie? Hai qualcuno del quale ti fidi, del quale capisci, non so, dall'espressione del volto, da quello che dice, che la tua poesia sta funzionando? Cioè, questo banco di prova, oppure è un lavoro che fai soltanto tu questo? No, non mi è mai capitato, no. L'ho fatta leggere queste di diario inverso ad un mio carissimo amico, si chiama un critico anche molto bravo, si chiama Donato Di Stasi, e che mi ha dato, devo dire, molti consigli preziosi, però no, non ho, nessuno a cui farle leggere subito appena scritte. Infatti questa cosa mi manca un po'. Se vuoi mi offro. Grazie, grazie. Ti prendo in parola. Ok. Allora, Luciano, ci fermiamo per qualche Sì. altro minuto, un po' di musica per i nostri ascoltatori e tra poco, insomma, chiacchieriamo ancora con te e del tuo diario in verso. Bene, grazie. Parlando di Diario in verso, lo stiamo facendo con l'autrice del libro, Luciana Argentino, la quale voglio chiedere, abbiamo parlato e stiamo parlando di poesia. Nella tua poesia ho notato una cosa secondo me molto importante, che ci sono anche delle parole, chiamiamole complicate, no? Quelle che non fanno del nostro parlare tutti i giorni. Ecco, oltre all'emozione, la poesia in qualche modo deve essere insegnamento, deve essere portatrice della nostra lingua? Io credo di sì, io credo di sì. Non so, io sono innamorata della nostra lingua, dell'italiano, che spesso, insomma, viene usato male o così, ci sono alcune parole bellissime, dimenticate. Io poi mi innamoro anche del suono delle parole, insomma, quindi. Di quello che mi evocano più prima, magari del senso prima che del significato in sé, però diciamo che non è una cosa che faccio, che è premeditata, ecco, magari mi capita di sentire delle parole e me le appunto sulla mia agenda, sul mio quaderno, e poi così, magari a volte proprio capita che una parola si porti appresso anche tutte le altre. Si può partire insomma dall'idea di un suono, no? Come la tradizione sì. orale ha sempre fatto in realtà, no? Il racconto sì. attraverso la parola, quindi una parola può scatenare un'intera poesia. Sì, che ti evoca qualcosa che magari... Sì, da suono a qualcosa che hai dentro di te che in quel momento magari vibrava piano e invece poi mano a mano comincia così a vibrare più forte e senti di doverlo fermare sulla carta poi. E poi vabbè sì, senz'altro le emozioni, è chiaro, quello certo. è la prima cosa. Senti, essere donna... per la prima volta ti definisco così, poetessa, è una cosa importante, è in qualche modo anche da questo punto di vista qualcosa che senti in maniera particolare quando scrivi, cioè sai di dover raccontare anche, non soltanto, perché poi il poeta scrive in maniera universale, no? Non da uomo e non da donna, sì. ma... Per una donna credo che invece sia più anche importante, più sentita questa cosa, di raccontare un universo femminile anche per cercare di dare delle indicazioni più precise agli uomini. Quest'ultima cosa non lo so, non ci ho mai pensato. Diciamo che sì, io non riesco a prescindere sì dal mio essere femminile anche quando scrivo, anche se anch'io sono convinta che la poesia non abbia un genere. Tra l'altro in una poesia del libro Diverso Penue, il libro precedente a Diario in Verso, scrivo molte donne in me ma un solo poeta, cioè una poesia che inizia proprio con questi versi. E molte donne, perché è chiaro, io insomma sono anche mamma, quindi insomma, ti senti, ecco, la tua femminilità, ecco, frammentata nel lavoro, con il tuo compagno, con i figli, no? Però poi, ecco, quando scrivo poesia, sì, è come se questo il mio essere un po' frammentato, insomma, si riunisse in qualche modo, no? Attraverso la scrittura. E quindi... Cioè, però ecco, diciamo, sento molto il mio essere donna, sì, questo senz'altro. Tutta Luciana, nel leggere le tue poesie ho spesso trovato questa immagine del silenzio che ogni tanto arriva, che irrompe, anche se per il silenzio non è esattamente una giusta immagine, però che ogni tanto... irrompe, può essere una delle paure più grandi che si può avere nella vita. Parlo di quel silenzio che non è il silenzio chiaramente fatto certo. di uno scambio, ma il silenzio nel senso privo di contenuti o del segnale di qualcosa che si è concluso. Sì, certo, questo libro è un libro del silenzio proprio che tu hai appena descritto, insomma, e quando il silenzio diventa un muro e tu stai lì e non sai come scalfirlo o scavalcarlo in qualche modo, e stai lì e niente, allora scrivi magari, gli dai tu le parole, cerchi di dargli tu le parole, ecco, in qualche modo. Luciana, io questa prima parte della nostra puntata è dedicata alle chiacchiere, insomma è giunta quasi alla sua conclusione, poi nella seconda parte io dico ai nostri ascoltatori di stare con noi perché leggerò io alcune delle tue poesie, le leggerai anche tu, anche per dar loro, insomma, oltre che la chiacchierata che abbiamo fatto, dar loro una prova o comunque una piccola immagine del tuo libro. Volevo che tu dicessi ai nostri radioascoltatori come trovare il tuo libro, se oltre chiaramente andare in una libreria e chiederlo, Diario in Verso di Manni Editori, di Luciano Argentino, se... c'è qualche altra possibilità, insomma, parlare di internet, se è possibile acquistarlo? Sì, senz'altro è possibile acquistarlo tramite il sito di Manni. E poi sì, in libreria sì, si può ordinare benissimo, insomma, Manni è ben distribuito, quindi per la poesia purtroppo è che è sempre un po' la Cenerentola. Speriamo che questo cambi in fretta, speriamo che cambi in fretta, noi ci mettiamo del nostro. Hai auguro. Qualche sito internet tuo, qualcosa dove trovarti? Io, o la tua pagina sì, Facebook? Collaboro con un, sì, sono su Facebook e inoltre collaboro con un blog letterario collettivo che si chiama Via delle Belle Donne, www.viadellebelledonne.wordpress.com. Bene. Bene, quindi ti possono trovare lì i nostri Sì, ascoltatori e conoscerti senz'altro, mi meglio. farà piacere molto, Io ti veramente. ringrazio davvero molto per essere stata insieme con noi. La prima parte Grazie, è grazie a te, grazie stato veramente a un tutti. piacere. La prima parte dedicata alla conoscenza del poeta e della donna Luciano Argentino termina qui. Tra poco restate insieme con noi perché invece entriamo in quello che credo sia poi la dimensione che anche a te, Luciano, piace di più, e cioè quella di far sì che i nostri ascoltatori possano ascoltare le tue poesie. Ti ringrazio davvero tanto e sono sicuro che avremo altre occasioni quando arriverà Grazie il tuo prossimo libro. a te. Me lo auguro, grazie di nuovo. A Ciao Luciana, presto. ciao ciao. Ciao, ciao.